Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Del legame sempre più stretto fra le città e i consumi e di quanto le trasformazioni urbane rispecchino le nuove abitudini di consumo e di vita abbiamo parlato più volte. Ecco perché oggi vi raccontiamo un evento che si tiene in contemporanea in 189 città del mondo, un evento che ha a che fare con ecosostenibilità e partecipazione civica, con lo scopo di mettere in evidenza il tema delle città a misura d'uomo. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dell'economia 0.0, anche in questo caso è il recupero di una dimensione più umana, più vera nell'economia, nell'innovazione e nel marketing. Focus sui trend dedicato infine alla fame verde, protagonista nel mondo dei consumi alimentari, dalle nuove catene di supermercati bio al boom dei ristoranti vegetariani e vegani, fino agli elettrodomestici per la coltivazione in casa degli ortaggi. È inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due, quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati. Italo Calvino, Le città invisibili. Si chiama Jane's Walk, l'iniziativa globale nata nel 2007 in memoria dell'antropologa, autrice e attivista statunitense Jane Jacobs, che ha speso gran parte della sua vita battendosi per uno sviluppo delle città a misura d'uomo. Domenica prossima, 1 maggio, in 189 città nel mondo si svolgeranno una serie di passeggiate ispirate alla filosofia di Jane per guardare con occhi diversi le aree in cui viviamo. Le passeggiate sono gratuite, aperte a tutti e condotte da volontari, all'insegna di quello stesso spirito di condivisione e partecipazione che anima, ad esempio, un fenomeno come quello delle social streets. Capofila dell'edizione italiana delle Jane's Walk Milano, dove ad organizzare le passeggiate c'è Sara Marder. Lo spirito anche di renderci più partecipi e anche più attivi, no? E renderci conto di quello che c'è sotto i nostri occhi e godercelo e anche a volte difenderlo. Questa è la terza edizione a Milano e sicuramente è l'edizione in cui inizia a prendere piede perché è più grande. Abbiamo 10 passeggiate in molti angoli direi interessanti della città, varie realtà anche sociali, attive sul territorio, si sono offerte loro per condurre delle passeggiate. Quindi ad esempio abbiamo le giardiniere che sono attive a Piazza d'Armi e anche il Comitato La Goccia, loro offriranno delle passeggiate nei rispettivi luoghi in tema del verde da tutelare. Poi abbiamo il gruppo FAS, C'è Vita attorno ai binari, che farà una passeggiata in tema di rigenerazione urbana vicino alla stazione centrale dove ci sono i magazzini raccordati. Amici del Monumentale, che offrono due passeggiate per far conoscere il patrimonio del cimitero. Poi abbiamo anche sul tema di agricoltura urbana. Quindi è proprio, io trovo, una bella mappatura, volendo, umana e sociale della città, e quello che ci tengo a dire è che non sono tour guidati, sono fatti appositamente per coinvolgere la cittadinanza e diventa una conversazione, no? Certo, c'è una persona o più persone che conducono, però non sono loro che monopolizzano la conversazione, cioè in realtà deve crearsi un dialogo, tutti passeggiano insieme, osservano il luogo, condividono le loro osservazioni, i loro spunti, eccetera. È una forma diversa di partecipazione e di conoscere la propria città. Le città saranno sempre più protagoniste nel futuro. Gli studiosi ci dicono che nel 2050, ad esempio, il 66% della popolazione mondiale vivrà nei centri urbani. Quanto è importante renderli a misura d'uomo? Ma io penso che sia cruciale, e tutte queste cose a cui pensava Jane Jacobs 50 anni fa, cioè adesso iniziamo a renderci conto proprio della validità di questo ragionamento. E se fosse la versione 0.0 la chiave di un'economia, di un'innovazione a misura d'uomo? Questa è la sfida che ci ha lanciato Oscar Di Montigny e che noi abbiamo raccolto volentieri raccontando la sua visione in 4 puntate. Siamo al terzo appuntamento. Buonasera Oscar. Ciao Maria Luisa e buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa sera vorrei partire da uno dei tuoi incontri, quelli che racconti spesso nei tuoi speech sull'economia 0.0. Sì, sì, anche questo sembra un incontro molto poco economico, ma in realtà è molto essenziale. Era l'anno scorso, io ero in viaggio di lavoro in Israele, stavo andando invitato dal Ministero dell'Economia a visitare alcune delle startup più innovative del paese, cyber security ed altro. E poi era la quinta volta che tornavo, ho detto stavolta io devo andare in Palestina. Sono stato a Betlemme e ho incontrato un personaggio incredibile, padre Ibrahim Faltas. Diciamo è l'uomo più importante della Chiesa Cattolica in Terra Santa, il custode della custodia in Terra Santa, francescano, egiziano. Padre Ibrahim, per chi così dovesse ricordarselo, siamo nel 2002, assedio alla Basilica della Natività, quindi luogo sacro, dell'esercito israeliano che stava rincorrendo dei palestinesi, in parte presunti terroristi, che si erano rifugiati nella Basilica della Natività. Mi ha fatto un racconto paradossale che sintetizzo. La sintesi era parecchi palestinesi rifugiati assistiti da frati francescani, greci ortodossi e armeni che gestiscono la Basilica della Natività. È stato un assedio che è durato 39 giorni. Il racconto è molto ricco di dettagli, ma in realtà il messaggio oggi sarebbe: dobbiamo essere pronti a rivedere il nostro punto di vista, altrimenti la confusione ci confonderà, scusate il gioco di parole. E padre Ibrahim ha detto: io quando ho dovuto scegliere cosa fare, ho scelto per l'uomo, indipendentemente dalle bandiere, dagli schieramenti. Anche qua ho cercato di traslare in economia cosa significa mettere l'uomo al centro. Significa condividere valori prima di vantaggi. Marketing, comunicazione, finanza, innovazione sono pronti a questa visione più antropologica, più umanistica dell'economia? Qual è l'obiezione che ti viene mossa più frequentemente? Non me ne vengono mosse tante, la cosa mi consola e da un lato anche un po' mi spaventa. Mi ricordo quando uno mi disse: quando tutti sono d'accordo con qualche cosa preoccupati. E sono d'accordo col principio, però se vogliamo proprio a tutti i costi cercare un'obiezione me la faccio da solo ed è: sei demagogico, sei banale. Al contempo però questa obiezione in me si trasforma in un complimento. Se essere demagogici vuol dire parlare di amore, di gratitudine, di centralità dell'uomo, evviva la demagogia e la banalità. Dopodiché poi esco nel mondo, lo faccio da genitore, da manager, accendo la TV, ascolto la radio, leggo i giornali e non trovo tutto questo amore, gratitudine, centralità dell'essere umano. Se è banale lo è stato ma non lo è più. E quindi da qui c'è l'idea del tornare all'essenza, no? Rimettiamo al centro le cose essenziali e se saranno banali sarà un successo. Nel dibattito sui consumi, sull'economia, si parla molto in questo momento di impact investing, benefit corporation, di responsabilità sociale. Lo si fa senza retorica, anzi con una visione molto pragmatica che coniuga il mondo profit e quello non profit. L'etica sta diventando di moda? L'etica è diventata necessariamente di moda, l'abbiamo resa di moda noi perché è diventato un bisogno. Studiando i macro trend, che è una disciplina che amo fare da parecchi anni, quindi i grandi flussi che guidano i cambiamenti, diciamo che gli studiosi hanno individuato in maniera molto semplice tre grandi orientamenti, in realtà quattro. La sensibilità all'ambiente, che chiaramente è agli occhi di tutti centrale come argomento. La demografia, il pianeta si sta ridisegnando per come è composto demograficamente, ci sono flussi da est a ovest, da sud a nord, e la tecnologia. Se non rimettiamo l'uomo al centro rischiamo di fare una lettura arida di tutto questo, per cui un ambiente che soccombe alla tecnologia, ad esempio, una demografia dove non sappiamo più relazionarci con ciò che è diverso, culturalmente diverso, socialmente diverso, è una tecnologia che appunto diventa una tecnocrazia, cioè che governa, guida e non è più uno strumento, mentre la tecnologia è uno strumento. Il quarto grosso driver, non a caso, i comportamenti, i valori, l'etica, che sapranno guidarci nel rispettare l'ambiente, nell'utilizzare la tecnologia in un modo appropriato per vivere in maniera più redditizia ed efficace per tutti, io sottolineo per tutti, le relazioni. Mi piacerebbe fare un'ultima sottolineatura, il concetto nuovamente l'abbiamo già trattato, di responsabilità. Martin Luther King diceva: può essere che tu non sia responsabile per la situazione in cui ti trovi, ma lo sarai se non farai nulla per cambiarla. Allora io vorrei un po' bypassare questo equivoco sociale dove tutti diciamo non dipende da me, no? No, dipende da te. E Martin Luther King in realtà ha le sue origini in Rosa Parks, la prima donna di colore, si dice che disse no a un bianco che le impose di alzarsi da un posto dove si era seduta su un autobus. Se non possiamo essere tutti Martin Luther King, possiamo essere tutti Rosa Parks, dipende da noi. Quindi anche il coraggio di alzare la mano in certe situazioni. Grazie ad Oscar Di Montini, alziamo alla le prossima. Mani. Ciao a tutti. Siete stati contagiati anche voi dalla fame verde? Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Essere e Avere. Quando vieni a casa mia io cucino per te. Presto. Potrebbe esserci un problema. Che problema? Sono la migliore cuoca della famiglia, diglielo. È solo che... Zia, Ian è vegetariano. Lui non mangia carne. Lui non mangia carne? No, lui non mangia carne. Come sarebbe a dire che lui non mangia carne? Oh, non fa niente, non fa niente, ti faccio l'agnello. Focus sui trend. Dalle nuove catene di supermercati bio al boom dei ristoranti vegetariani e vegani, fino ai kit e agli elettrodomestici per la coltivazione in casa degli ortaggi. È il verde, il colore dominante nei consumi alimentari, non solo una moda, ma un mercato sempre più importante che rispecchia anche un cambio di abitudini. Basti pensare che in Italia i vegetariani sono ormai il 10% della popolazione, più dei tedeschi, e i vegani il 2%, una tendenza che esploriamo con Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora è così Isabella, il futuro del cibo è verde, voi parlate di una vera e propria fame verde in istituto. Sì, fame verde, assolutamente, perché sono proprio le persone, ma anche tutto il mondo, come hai detto tu, del marketing, delle aziende, se ne sta accorgendo. Basti pensare che il 2016 è stato nominato come anno internazionale dei legumi dall'ONU. E questi legumi rappresentano il 75% della dieta nei paesi in via di sviluppo, mentre nei nostri paesi industrializzati solo il 25%, e converrebbe invece proprio incrementare questa percentuale, perché i legumi, ormai si sa, fanno molto bene. E così hanno iniziato la FAO insieme all'ONU a proporre delle iniziative per supportare questo consumo. Per esempio la FAO ha già raccolto sul suo sito 850 ricette da fare con i legumi provenienti da tutto il mondo. Ma poi non solo questo, per il 2016 ci sono dei trend alimentari, quelli tra i più forti, che riguardano proprio le verdure e i legumi in chiave di un rinnovato salutismo. Nei paesi anglosassoni, per esempio, è esplosa la moda, che può arrivare poi presto anche da noi, di utilizzare le verdure come piatto principale, non come un contorno, e in forme elaborate, industrializzate. Non so, per dire, al posto della pasta si mangiano spaghetti di carote e zucchine, o al posto della carne si può decidere di mangiare un purè di spinaci al pomodoro. Un altro trend riguarda poi i cibi fermentati e probiotici, no? Che forniscono i batteri buoni per l'intestino. Vanno forte in America, ma già stanno prendendo piede anche da noi, quindi oltre allo yogurt e al latte fermentato, il kefir, c'è anche il tempeh, che è soia fermentata, oltre a kombucha, i krauti, il miso, il pane fatto a partire dalla pasta madre e non il lievito industriale, e il kimchi, che è appunto la verdura fermentata coreana. Saranno sempre più richiesti, no? Tutti i nomi infatti che magari sono familiari solo ad alcuni di noi e invece diventeranno mainstream, questo dicono le previsioni. Sì, perché oltre alle specifiche mode alimentari c'è proprio una domanda crescente di cibo biologico, e anche da noi è da qualche anno che si sta registrando un 20% in più all'anno di questo settore, che ormai ha raggiunto i 2 miliardi e mezzo di euro. Ma non solo biologico, l'attenzione crescente delle persone va verso proprio la freschezza dei cibi, verso una sostenibilità che garantisce questa freschezza. Si pensi, non so, al chilometro zero, l'agricoltura urbana, fare acquisti locali, che significa sicuramente inquinare meno, aiutare l'economia del posto, ma anche appunto godere di prodotti freschi. Questo dunque lo scenario, la mappa generale, un grande mercato dunque, lo abbiamo capito. Passiamo ai casi che hai selezionato per quanto riguarda retail e distribuzione. Accanto ai casi internazionali che fanno scuola, come per esempio a New York Mrs. Green's Natural Market, no? Dove tutto è fresco, anche il pet food, anche gli integratori e persino i cosmeceuticals, cioè i cosmetici a base di ingredienti naturali che si tengono in frigorifero, ma anche appunto il mondo del retail italiano punta sul bio. Il Natura Sì, che è il nostro leader di mercato presente dagli anni 90, ha aperto proprio questo mese il suo 200° negozio a Milano e in 3 anni ha raddoppiato il numero di punti vendita. Ma poi c'è anche Alma Verde Bio, che è un gruppo di aziende produttrici di alimenti biologici italiani, 4 punti vendita tra l'Emilia e la Lombardia, e che al supermercato unisce, diciamo, un'area bistrò dove assaggiare le preparazioni o imparare nuove ricette. Poi posso citarvi Piacere Terra Bio, che ha come obiettivo l'idea di rendere democratico il bio e punta proprio sulla salubrità di una dieta a base di frutta e di verdura, però accessibile a tutti. E questo è anche lo stesso obiettivo che ha Biocbon, che è una realtà francese invece piuttosto recente, cioè dal 2009, che da poco però è entrata anche in Italia, ha 4 punti vendita a Milano e vuole cambiare la percezione che in genere si hanno dei cibi, dei prodotti biologici: sono naturali, sono sani ma sono cari, e invece appunto vuole valorizzarne da un lato l'accessibilità e dall'altro la bontà. Questo quindi per quanto riguarda la distribuzione. Il mercato guarda anche ovviamente al consumo in casa con la valorizzazione dei prodotti e fuori casa con la ristorazione. Dall'America ci sono dei casi interessanti che vanno in questa direzione, per esempio Back to the Roots è un'azienda californiana che propone prodotti ready to eat ma anche ready to grow, kit di coltura di funghi organici che si fanno crescere e poi si mangiano in casa, o anche Garden in a Can, Water Garden, cioè piccoli giardini domestici che poi producono germogli e erbe aromatiche. Ecco. Per il fuori casa invece un caso molto interessante sicuramente è quello di San Francisco, che si chiama The Perennial ed è un ristorante che è stato aperto all'inizio di quest'anno, che si ispira alla massima dello scrittore ambientalista Wendell Berry, secondo cui mangiare è un atto agricolo. L'idea di base di questo appunto ristorante perenne è quella di creare un vero e proprio sistema alimentare a ciclo chiuso che si autoalimenta il più possibile. E quindi cosa ha fatto all'interno? Ha sviluppato un vero e proprio programma acquaponico per recuperare gli avanzi e gli scarti del ristorante, trasformarli in cibo per i pesci che hanno in un bell'acquario, che a loro volta fertilizzano quest'acqua con la quale vengono innaffiati e coltivati diversi vegetali e piante. Ecco. È un ristorante che naturalmente ha il suo roof garden, cioè un orto sul tetto, ha una living pantry verticale, cioè coltiva sui muri delle erbe aromatiche, delle piccole verdure a foglia che diventano parte integrante proprio del design. Autoproduzione dunque sia nella dimensione domestica che in quella della ristorazione, come abbiamo sentito. L'ultimo capitolo della nostra carrellata, Isabella, è il ruolo della tecnologia, che anche in questo settore diventa importante. Sì, importantissimo, perché già ci sono in fase di sviluppo o anche primo utilizzo degli accessori che aiutano le persone, i consumatori, a controllare meglio cosa mangiano in termini di calorie e nutrienti. Per esempio c'è Smart Plate, che è un prototipo americano di una startup di Filadelfia, di un piatto intelligente che analizza istantaneamente qualunque cibo si metta nel piatto. È un piatto che sembra quello dei bambini, è suddiviso in 3 parti che già tengono conto appunto delle porzioni corrette, all'interno una fotocamera che scatta la foto del cibo per il riconoscimento del contenuto e poi c'è pure una bilancia. Quindi funziona con un'app sulla quale vengono subito inviati e visualizzati e memorizzati naturalmente tutti questi dati nutrizionali e le calorie del cibo che si mette nel piatto. Ultimo caso che vi proporrei è il progetto Edible Growth, quindi crescita commestibile, ci proietta direttamente verso il futuro, quasi fantascienza, perché consiste in una stampante 3D di strutture vere e proprie da mangiare, a forma di piccoli cestini, sembrano di pane, che contengono però al loro interno semi, spore lieviti e che iniziano a crescere dopo pochi giorni da quando vengono appunto stampati, diciamo così, facendo poi spuntare erbette e funghi all'interno. Beh, sicuramente una grande ottimizzazione per rispettare la quota verde nella nostra alimentazione, che tutti i nutrizionisti dicono essere appunto molto importante. Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima. Grazie a te, arrivederci a tutti. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, di Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa e buonasera ai radioascoltatori. La tua analisi da dove parte per questa puntata? Questa puntata parte da un termine nuovo che peraltro è stato utilizzato proprio in questi giorni in una nuova campagna. Il termine è untaggable, cioè l'idea che più siamo taggati, quindi selezionati e raggiunti soprattutto sul web da messaggi, post dei nostri amici e anche da chi non ci conosce, più in realtà siamo imprevedibili. E Audi ha deciso di costruire la propria nuova campagna esattamente su questo termine, che mi sembra molto interessante e in linea in fondo con la visione del consumatore. Mai come prima d'ora il concetto di target, ad esempio, è stato messo in discussione. Le categorie hanno confini che passano per parametri diversi, molto più fluidi, legati alle esperienze, alle aree di interesse, come ci ha raccontato altre volte Francesco. Sì, allora nello stesso tempo facciamo sicuramente più cose, siamo molto più attenti anche ai nostri umori e alle nostre passioni e quindi siamo imprevedibili, ma questo non vuol dire che siamo caotici, vuol dire che seguiamo delle nuove logiche. Quindi il modo migliore, ad esempio, se vuoi comunicare a persone che sono untaggable, è quello di decidere un tuo punto di vista, e a quel punto saranno i tuoi consumatori che ti sceglieranno. Rischi un po' di più, ma questo funziona molto meglio. È un concetto che secondo me introduce anche un tema molto discusso oggi in rete, la cosiddetta filter bubble, cioè la bolla attraverso la quale quella parte di internet a noi più simile o che determinati algoritmi hanno considerato a noi più simile racconta il mondo, ma non è tutto il mondo. Non è tutto il mondo. Io francamente sono poco preoccupato da questa visione, perché credo invece che noi alla fine desideriamo ciò che non conosciamo, siamo curiosi e quindi non ci accontentiamo di continuare a ripetere il nostro stile di vita, di acquisto, di consumo, ma andremo sempre alla ricerca di ciò che è diverso. È chiaro che bisogna penetrare la bubble con intelligenza, perché altrimenti preferiamo non perdere tempo. Grazie a Francesco Morace, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.